Annaba, l'annuncio. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Amma yatasaalun. Su cosa si interrogano a vicenda? Anin naba'il 'azim. Sul grande annuncio. Alladhi hum fihi mukhtalifun. A proposito del quale sono discordi. Kalla sa'lamun. No, presto verranno e sapranno. Thumma kalla sa'lamun. Ancora no, presto sapranno. Alam naj'alil arda mihada. Non facemmo della terra una culla. Wal jibala awtada. Delle montagne e pioli. Wa khalaqnakum azwaja. Vi abbiamo creato in coppie. Wa ja'alna nawmakum subata. E facciamo del vostro sonno un riposo. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Della notte un indumento. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. E del giorno un mezzo per le incombenze della vita. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Costruimmo sopra di voi 7 solidi cieli. E vi ponemmo una lampada ardente. Facciamo scendere dalle nuvole un'acqua abbondante. لنخرج به حبا ونباتا. Per suscitare grano e vegetazione. وجنات ألفافا. E giardini lussureggianti. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Invero, il giorno della decisione è stabilito. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Il giorno in cui verrà soffiato nel corno, accorrerete a frotte. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Sarà spalancato il cielo e sarà tutto porte. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. E le montagne saranno messe in marcia, diventando un miraggio. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Invero l'inferno è in agguato. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. Asilo per i ribelli. لابثين فيها أحقابا. Vi dimoreranno per intere generazioni. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Senza gustare né freschezza né bevanda. إلا حميما وغساقا. Eccetto acqua bollente o liquido infetto. Giusto compenso. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Poiché non si aspettavano il rendiconto. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Sfrontatamente tacciavano di menzogne i nostri segni. Mentre di ogni cosa abbiamo tenuto conto per iscritto. E allora gustate il tormento, a voi non accresceremo null'altro che il castigo. Inna lil muttaqina mafaza. In verità avranno successo i timorati. Hadaiqa wa a'naba. Giardini e vigne. Wa kawa'iba atraba. Fanciulle dei seni pieni e coetanee. Wa ka'san dihaqa. Calici traboccanti. La yasma'una fiha lahwan wa la kizzaba. Non udranno colà né vanità né menzogna. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Compenso del tuo Signore, dono adeguato. Rabbi as-samawati wal-ardi wa ma baynahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Da parte del Signore dei cieli della terra e di ciò che vi è fra mezzo, del compassionevole, cui non oseranno rivolgere la parola. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Il giorno in cui lo spirito e gli angeli si ergeranno in schiere, nessuno oserà parlare, eccetto colui cui il compassionevole l'avrà permesso e che dirà cose vere. Zalika al-yawmul haqq, faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Quel giorno verrà ineluttabilmente, si rifugi quindi presso il suo Signore chi vuole. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. In verità vi abbiamo avvertito di un castigo imminente, il giorno in cui l'uomo vedrà quello che le sue mani avranno preparato e dirà al miscredente: ahimè, fossi io polvere.